Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, bentornati a Magazine 24, appuntamento con la stampa periodica non solo italiana, con gli articoli così più interessanti o che magari possono più incuriosire i lettori. Ad esempio, stamattina volevo cominciare con una domanda che è una di quelle domande un po' eterne: ma perché non ci sono grandi chef donne? Qua sembra quasi una contraddizione. Me lo chiedo perché se l'è chiesto un settimanale francese, e siccome sappiamo quanto i francesi siano sensibili ai temi della cucina e alle onorificenze che sono connesse alla cucina, alle classifiche e così via, beh, mi è sembrato una domanda comunque interessante. Allora, l'inchiesta, questa la definizione proprio del Nouvel Observateur, si intitola proprio così: lo chef non è una donna. E dice si chiede anche l'autore Elodie Lepage su Nouvel Observateur: la gastronomia è davvero l'ultimo bastione maschilista, perché sì, le donne chef si contano ancora sulle dita di una mano, ma da qui a qualche anno le forze potrebbero equilibrarsi. Perché? Perché ci sono più donne che si iscrivono alle scuole, ai percorsi formativi che appunto in Francia consentono di diventare chef. Non saprei dirvi se anche in Italia la situazione è identica a questa. Comunque è noto che non è facile, non è così consueto incontrare uno chef donna. Vi segnalo però quello che scrive appunto Nouvel Observateur, che parte con questo attacco: dove sono le donne? Sono più nei consigli di amministrazione che in cucina. Questa per un certo punto di vista, o in un certo senso, potrebbe essere anche una buona notizia. Lo strano è che appunto non arrivino a esserci donne chef, specialmente in Francia. C'è stato un festival che si chiama Omnivore Food, si è tenuto proprio negli ultimi giorni di febbraio, ci sono stati presentati 30 nuovi chef e sono 30 ancora 30 uomini. Un'atmosfera ugualmente virile è quella della guida Michelin che viene citata. Nel 2009 c'è stata una sola donna chef citata tra quelle che si sono meritate il massimo delle stelle, le tre stelle. Poi ci sono c'è una donna pure tra le due stelle, e ce ne sono 8 che si sono riuscite a piazzare almeno con una stella. Anche i nuovi arrivi, insomma, gli astri nascenti, per così dire, della gastronomia francese, celebrati dai magazine del settore, continuano a essere uomini, hanno continuato in questi ultimi mesi a essere uomini. Come si spiega tutto questo? Addirittura si tira un po' in ballo la storia e si dice: ma le ragioni del male, infatti, scrive Lepage, sono antiche. La spiegazione viene da Jean Vitot, che è autore di un dizionario della gastronomia, francese. Dice: è una corporazione, quella degli chef, storicamente composta da uomini. Perché? Perché gli chef sono gli eredi dei cucinieri, mi scuso se la traduzione sarà forse poco rispettosa, che si occupavano del re e dei principi prima della rivoluzione francese. Quindi questi capocuochi, questi chef appunto ante litteram, erano per lo più uomini, come probabilmente era più spiegabile, più comprensibile all'epoca, ma sembrano avere mantenuto per tutti questi secoli, insomma, la capacità di non far entrare donne nella loro professione. Infatti, scrive sempre Lepage, i loro discendenti difendono molto bene la posizione acquisita. Perché, diceva Nouvel Observateur all'inizio, le cose potrebbero cambiare? Dice: ma forse in una dozzina d'anni le donne potrebbero conquistare un numero un po' più consistente, una presenza un po' più consistente. Perché? Perché andando a guardare tra chi sta adesso entrando nelle scuole per il diploma di chef, insomma, di scuola superiore di cucina francese, si ritrova una percentuale attualmente i primi anni del 45% di ragazze, 55% di ragazzi. Quindi c'è un deciso riequilibrio rispetto ai numeri che avete sentito prima: un solo chef donna che ha meritato il massimo delle stelle Michelin, pochissime altre quelle che hanno comunque meritato una segnalazione dalla prestigiosa guida francese. Potrebbero quindi cambiare le cose, forse ci saranno più chef donna, ma sembra di capire da questo stesso articolo di Nouvel Observateur non è cosa che accadrà domani o in tempo per l'8 marzo che celebreremo tra pochissimi giorni. Un articolo molto interessante che ho trovato questa settimana viene da Focus. Focus si occupa nel suo nuovo numero in edicola di un aspetto del comportamento che è particolare, che è la fiducia. Perché l'articolo è particolarmente interessante? Perché la fiducia è notoriamente il caposaldo, il fondamento essenziale per lo più degli scambi economici. Cioè gli scambi economici, pensiamo ad andare in banca, acquistare qualcosa, avvengono sulla base appunto di un atto di fiducia. La fiducia permette di vivere in gruppo, poi ricorda appunto Focus, e spinge anche a comportarsi bene. Ma quello che è interessante, che si scopre appunto leggendo questo articolo su Focus, è che ovviamente la percezione di affidabilità è una parte essenziale di un paese. La correttezza delle istituzioni di un paese attira gli investimenti, favorisce gli scambi, e quindi non ci potrà mai essere un contratto che in realtà ci assicura su tutto. Molta parte degli scambi, se non tutti, avvengono perché c'è un atto di fiducia, meccanismo fondamentale nella storia del commercio. Ma hanno dimostrato che la fiducia poi riesce anche a superare la banale convenienza a fidarsi, perché hanno fatto questo tipo di esperimento che ha dimostrato che il semplice fatto di fidarsi spinge gli altri a essere affidabili, cioè a mostrare di meritarsi questo credito. Un esperimento molto interessante appunto è quello che è stato condotto in Israele. Per dissuadere i genitori dall'andare a prendere i figli in ritardo, una scuola aveva pensato di introdurre un asilo, aveva pensato di introdurre una multa per i ritardi. I ricercatori hanno osservato il comportamento dei genitori in quell'asilo dove era stata introdotta la sanzione e in quelli dove non era stata introdotta. Il risultato, forse sorprendentemente, è che con le multe il rapporto è diventato da fiduciario a commerciale, quindi l'aspetto di fiducia è venuto meno, e i ritardi sono diventati un bene che in qualche modo si poteva comprare e quindi sono aumentati. Chi ha ritenuto di poterselo permettere quindi è arrivato in ritardo. Quello che invece non è successo negli asili dove le multe, per chi arrivava a prendere i figli in ritardo, le multe non c'erano. I genitori vincolati dall'obbligo di essere affidabili, che quindi dovevano essere affidabili per rispetto degli insegnanti, per il fatto stesso appunto del scambio di fiducia che era avvenuto, questi genitori si sforzavano molto di più di essere puntuali rispetto agli altri, che comunque consentivano a pagare una multa e poi si presentavano in ritardo. Tutti questi meccanismi sono stati ulteriormente analizzati da un signore che insegna in una università americana, la Claremont Graduate University. Questo signore si chiama Paul Zak, che ha analizzato i meccanismi fisiologici alla base di questi comportamenti. Lui ha usato un test, il gioco della fiducia, in cui consentiva, per farvela molto rapidamente, degli scambi di denaro, degli affidamenti di denaro tra giocatori. Basilare era che i giocatori si fidassero gli uni degli altri, perché dovevano affidare appunto le loro somme di denaro, si dovevano affidarsi le loro somme di denaro reciprocamente, e quindi se non si fossero fidati il gioco non sarebbe mai partito. Quello che è successo è che naturalmente il gioco ha funzionato, le persone si sono fidate l'una dell'altra, e Zak si è messo a misurare allora i livelli nel sangue dei giocatori di un ormone particolare, un ormone che è coinvolto nei legami sociali. Questo ormone è l'ossitocina. E cosa succede? Cosa ha notato succedere? Che più soldi venivano affidati da un giocatore a un altro e più aumentavano questi livelli di ossitocina. Questo significa, in qualche modo, starebbe a significare che nella natura umana c'è proprio la predisposizione a fidarsi, siamo in qualche modo fatti per contraccambiare. L'ossitocina implicata nei legami crea un legame sociale tra due estranei. Naturalmente la fiducia poi è molto più facile da riscontrare tra i genitori e i figli, ad esempio. Hanno studiato anche a Zurigo questi effetti dell'ossitocina nel cervello per chi appunto dà credito al prossimo. Hanno provato a somministrare ossitocina ad alcuni e a non somministrare nulla, cioè un placebo, un farmaco finto, ad altri, e hanno notato che quelli che ricevuto ossitocina si fidavano di più. Quindi ci sarebbe una base chimica che poi è anche essenziale per le nostre scelte, per i nostri comportamenti. Chissà se poi l'una rinforza l'altra, questo sarebbe complicato da spiegare, ma tutto questo, appunto, l'importanza della fiducia e il nostro essere naturalmente propensi alla fiducia, viene analizzato su Focus di questo mese, Focus che trovate in edicola. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di fiducia, di come la fiducia sia essenziale, lo sanno già gli economisti naturalmente, che l'hanno sempre posta alla base degli scambi e delle transazioni commerciali. L'articolo che vi ho segnalato da Focus trova un complemento direi ideale in un altro articolo comparso invece sull'Espresso di questa settimana, intitolato L'altruismo dà felicità. Adesso non saprei dirvi se anche qui si parla dell'ossitocina, ma mi pare proprio di no. La sostanza appunto che avevamo indicato come essenziale negli scambi per la fiducia, ma Valeria Palermi sull'Espresso spiega che c'è questa nuova tendenza di vita, nuova probabilmente va inteso rispetto a questa avidità che tanto abbiamo criticato appunto come origine della crisi economica, e per la scienza l'altruismo è nel DNA, per gli economisti è un investimento, per tanti è una scelta utile perché dare agli altri conviene. L'articolo della Palermi comincia con una vicenda diciamo un po' curiosa, decisamente curiosa, quella di un ex giornalista del Wall Street Journal che poi era diventato imprenditore, che a un certo punto insieme con i suoi figli, anzi in realtà spronato da una dei suoi figli, ha deciso di rinunciare al superfluo e quindi ha venduto la sua lussuosa casa che era di 600 metri quadri, ha destinato la metà del ricavato in una serie di azioni umanitarie di sostegno ai poveri, soldi per villaggi del Ghana per progetti di microfinanza, soldi per assistenza sanitaria, soldi per l'alimentazione, e dice la loro vita è cambiata. Ne è uscito poi un libro che si chiama significativamente Il potere della metà, cioè quanto si potrebbe fare vivendo, accontentandosi di vivere con la metà di quello che invece riteniamo essenziale alla nostra vita. Questo libro ha generato poi un sito, ha scatenato dei dibattiti, delle critiche, qualcuno ha detto, ha diciamo rispolverato l'abituale critica, tutte queste cose vengono fatte più per farsi vedere, per mettersi in mostra, che per reale altruismo. Ma insomma la domanda di essenzialità dell'altruismo è rimasta, e infatti dice la Palermi quanto siamo capaci davvero di essere altruisti, quanto dovremmo, ed è naturale essere altruisti o invece è naturale essere egoisti. Essere altruisti alla fine conviene? Secondo appunto una serie di studiosi che vengono segnalati dall'Espresso, già a 12-18 mesi noi siamo naturalmente altruisti nei confronti degli altri esseri umani. Se i bambini tra i 12 e i 18 mesi vedono un adulto estraneo che ha le mani occupate e non può raccogliere qualcosa da terra, fanno per lui, raccolgono questa cosa da terra per lui, gli indicano, quando l'adulto finge di aver perso qualcosa, dove si trova l'oggetto. Crescendo in realtà questo istinto a cooperare si fa più selettivo e quindi cominciamo a fidarci un po' meno, diciamo a fidarci a ragion veduta. A 3 anni, si spiega, i bambini sono generosi, ma soprattutto con i bambini che sono stati cooperativi con loro. Ci sono teorie appunto diverse, che però arrivano, presentate da autori diversi, che però arrivano più o meno su questa linea. La linea viene riassunta così: la tesi è da troppo tempo noi sopravvalutiamo l'aggressività, beh, forse basterebbe anche l'egoismo, come molla del comportamento umano, noi in realtà siamo piuttosto programmati per aiutarci gli uni con gli altri. L'empatia con gli altri è una risposta automatica ed è una risposta praticamente incontrollabile. L'articolo poi prosegue con una serie di altri esempi di persone che in qualche modo dedicano parte del loro tempo, delle loro abilità agli altri in modo appunto gratuito, senza ricavarne un compenso diretto in denaro o in altro modo, e conclude con l'indicazione di un guru, un esperto di management, che segnala come il fatto di essere altruisti per chi ad esempio dirige un'azienda sia particolarmente conveniente. La sua teoria viene definita cinica, cristallina ed esemplare, perché dice: in un panorama economico mondiale che è diventato trasparente, tanto è la velocità con cui viaggiano le informazioni, un ottimo modo per un'azienda di superare le concorrenti, dice Dov Seidman di Los Angeles, è quello di batterle sul piano etico. Cioè la migliore performance, il migliore risultato è quello etico, perché il miglioramento dell'immagine dell'azienda si porterà dietro prima la simpatia dei potenziali clienti e poi i soldi che verranno spesi per i prodotti di quell'azienda. Non solo, naturalmente in America è molto più facile che da noi, è molto più frequente. Un consumatore oggi può facilmente distruggere la reputazione di un'azienda con un post, cioè effettivamente con la capacità di comunicazione tramite le mail, i blog e quant'altro, è molto più semplice diffondere delle cattive notizie. Quindi, avverte Seidman, è importante non fare delle operazioni furbesche, delle operazioni di marketing, ma fare veramente delle azioni etiche, delle azioni altruiste, e in questo modo si arriva a quello che Valeria Palermi definisce il paradosso dell'altruismo interessato. Ad esempio, una forma particolare di altruismo, non sappiamo se poi interessato o meno, è quello che viene segnalato da Famiglia Cristiana questa settimana. Parla della diffusione, della messa a disposizione gratuita dei libri. Probabilmente avete sentito parlare di book crossing. Il book crossing è questa pratica che consiste nell'abbandonare in certi luoghi, sulle panchine, sui treni o altrove, dei luoghi di passaggio appunto, dei libri, lasciandoli proprio in deposito, regalandoli, donandoli a qualcun altro così che possa leggerlo e poi a sua volta dividerlo con qualcun altro ancora. Perché ci parla di tutto questo Paolo Perazzolo su Famiglia Cristiana? Perché ci sono diverse associazioni che stanno portando avanti o pratiche di book sharing o pratiche di diffusione del libro meno convenzionali. Il titolo "Se il lettore non va al libro" parte dalla considerazione nota che gli italiani, noi italiani, non amiamo leggere, e invece convinte che leggere sia uno dei piaceri della vita, varie associazioni hanno escogitato delle iniziative originali per farci cambiare idea, e tra queste iniziative originali c'è appunto la possibilità di trovare dei libri gratuitamente, cioè dei libri a disposizione sul comodino delle stanze d'albergo, all'imbarco delle navi da crociera o sul treno in metropolitana, all'angolo sotto casa, e c'è addirittura qualche associazione culturale che si incarica di portare il libro a casa. Tra l'altro viene segnalato un esperimento che si sta per svolgere, che si svolgerà a livello nazionale, che è stato proposto proprio sulla rete internet. Il 26 marzo chi lo vorrà regalerà per strada un libro a uno sconosciuto. Questo gruppo, che è un gruppo attivo su Facebook, si sta attivando per questa iniziativa, conta adesso 206.000 aderenti, quindi un gruppo di una certa consistenza. Vedremo se poi questa iniziativa alla fine, verso la fine del mese prossimo, avrà successo. A qualche numero per capire il problema, viene da dire, perché il 65% le lettrici in Italia risultano, il 65% delle donne, gli uomini 55,8%, quindi gli uomini già leggerebbero meno delle donne. Gli italiani che hanno letto almeno un libro nell'ultimo anno sono il 60%, il che sta ad indicare che 4 italiani su 10 non hanno letto neppure un libro nell'ultimo anno. Questo risulterebbe da questa percentuale, e in effetti ci sarebbero appunto 20 milioni, più di 20 milioni di considerati non lettori. il 12% delle famiglie non ha in casa nemmeno un libro. Questi sono i dati Istat che Alberto Laggia ha raccolto insieme appunto a Paolo Perazzolo nella parte cultura e fenomeni che viene presentata questa settimana su Famiglia Cristiana. A questo punto forse non dovrei dirlo, perché abbiamo visto quanto poco amiamo leggere, o quanti tra noi siano quelli che amano poco leggere. Io invece volevo segnalare addirittura una cosa da rileggere e non da leggere. È un'iniziativa che il Sole 24 Ore, il quotidiano Sole 24 Ore, sta presentando proprio in questi giorni. Sono stati raccolti in un CD-ROM, quindi in un disco, tutte le tre particolari raccolte di tre sezioni, tre argomenti particolari del nostro quotidiano. L'iniziativa complessiva si chiama Un anno di sole, ma il senso qual è? Che potete trovare riunite in un solo CD-ROM, ad esempio, tutti gli articoli pubblicati sulla sezione domenicale, la nostra sezione culturale, nell'anno 2009. Questo è uno dei tre CD-ROM in vendita, 12,90 €, da aggiungere poi al prezzo del quotidiano. Il volume lo trovate, questo CD-ROM lo trovate in edicola. Ci sono anche altri due CD, diciamo, più mirati. L'uno appunto è dedicato agli articoli del nostro supplemento culturale della domenica. C'è un altro CD-ROM che invece contiene tutta la raccolta degli articoli del 2009 dedicati al tema norme e tributi e alle risposte l'esperto risponde. E c'è infine un terzo CD-ROM dedicato alla finanza, per chi si interessa o vuole capire di finanza, tutta la raccolta 2009 di finanza, degli articoli di finanza del Sole 24 Ore e degli articoli di Plus 24, il settimanale che immagino conosciate, lo trovate ogni sabato in allegato al Sole 24 Ore. Questa è la segnalazione che vi volevo fare. Se amate leggere, se soprattutto vi può essere utile o vi interessa rileggere, ecco, il Sole 24 Ore vi propone tutto il 2009 raccolto appunto in tre CD-ROM. E allora, con questa segnalazione, il tempo a nostra disposizione per oggi è scaduto. Io vi auguro naturalmente una buona domenica. Ringrazio Filippo Uregi anche questa mattina in regia. Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro mi hanno aiutato come sempre a preparare questo programma. Io vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Magazine 24. A risentirci.